Noi tutti sappiamo, crediamo anzi, che Gesù sia venuto, mandato dal Padre e anche tra di noi, no? E anche per rivelarci il Padre, no? Per rivelarci il volto del Padre, e, tanto che appunto diceva Filippo che nell'ultima cena, secondo il racconto di Giovanni, che gli diceva Signore mostraci il Padre, no? Che ci basta così. Gli diceva Filippo, da tanto tempo sono con voi e ancora non mi conosci, no? E chi vede me vede il Padre. Questa è la grande una delle grandezze dell'incarnazione, per cui noi siamo così grati al Signore, perché ha deciso di farsi vedere, no? di rivelarsi completamente, ecco, dopo aver preparato questa rivelazione lungo tutta la storia, possiamo dire, con la creazione, e poi con la rivelazione di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, qualcuno chiama il Primo Testamento, cioè la prima, cioè la Bibbia, l'Antico, insomma, la legge, i profeti, e l'aver creato un suo popolo per custodire la sua memoria e poter rivelare a lui diversi aspetti, no, di sé, però poi con la pienezza dei tempi c'è la pienezza della rivelazione di Dio attraverso il Figlio, e questo è il mio Figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, e ascoltatelo e quel Padre. Il Padre attraverso Gesù, in queste epifanie, no, del Vangelo, in queste teofanie, queste manifestazioni, queste parole che dice anche, che possono essere anche ascoltate da tanti, ci incoraggia a guardare Gesù, a seguire Gesù, perché lui ci dà la vera immagine del Padre, no? Cioè da attraverso le parole, poi sì, ecco, sicuramente gli esegeti potranno trovare nei quattro Vangeli sottolineature anche diverse, peculiari, no? Del ritratto del Padre che Gesù fa, lo fa attraverso parole esplicite, no? Pensate quello che dice che il Vangelo di Giovanni, il Padre stesso vi ama. Oppure, ecco, come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Ecco, vedete che già si vede questo passaggio, no? Dal Padre a Gesù a noi, no? Il Padre vi ama, oppure come il Padre ha mandato me, io mando voi. Cioè, siamo mandati da Gesù, ma come il Padre ha mandato Gesù, quindi siamo mandati come figli, no? In mezzo al mondo e a parlare di Dio, io direi ad essere anche noi, attraverso la nostra identificazione con Cristo, ad essere anche noi Cristo, che è il Figlio del Padre e che quindi manifesta con la sua persona, con i suoi gesti, manifesta com'è il Padre, no? E quindi ogni cristiano, essendo chiamato ad essere e un altro Cristo, lo stesso Cristo, attraverso il battesimo, attraverso la cresima, attraverso attraverso la frequenza dell'Eucaristia, attraverso la meditazione delle parole di Dio. Ogni cristiano è chiamato a essere un altro Cristo e diventa il volto del Padre, è chiamato a diventare il volto del Padre in mezzo agli uomini, no? Suoi fratelli, che quindi a sua volta incoraggia a scoprire il loro essere figli di Dio, per creazione, il loro essere figli di Dio, per somiglianza, no? Per immagine e somiglianza, e poi l'essere figli di Dio ancora con più pienezza, e attraverso l'identificazione con Cristo, attraverso il battesimo, attraverso l'azione dello Spirito Santo in noi che ci rende figli di Dio. E figli di Dio, figli del Padre, no? E che manifestano nel mondo il vero volto del Padre. Quindi Gesù, tu Gesù ci hai parlato del Padre, ce l'hai mostrato con la tua stessa vita, no? Come ci dici. Poi ce ne hai parlato appunto con le parole, dicevamo, no? Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, no? Poi pensate, ecco, negli ultimi capitoli del Vangelo di San Giovanni, quelli che riguardano l'ultima cena, la citazione del Padre è frequentissima, quindi il Padre mio è l'agricoltore, no? Io sono la vite e voi tralci, il Padre è l'agricoltore. Quindi con immagini, con similitudini, e poi con parabole, Padre, e sicuramente la parabola che poi è la più famosa, che ci torna in mente quella del Vangelo di San Luca, del padre che aveva due figli, no? E questo padre che Gesù descrive è un padre che lascia che il figlio prenda in mano la sua vita, e pur con un'azione che lui probabilmente sa essere un'azione che poi non porterà a cose buone, però gli permette di essere figlio, di prendere, appunto, di prendere in mano tutta la sua vita e anche tutta la sua eredità, cosa che pare che fosse proprio una grave mancanza, chiedere l'eredità al padre prima del tempo, no? Invece questo padre è così magnanimo che non ne fa al figlio più piccolo che gli ha chiesto: dammi la mia eredità, no? E non ne fa una. Non, diciamo, non lo riprende nemmeno, non lo colpevolizza. Egli, padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta, degli divise tra loro le sue sostanze, no? Quindi addirittura dà prima del tempo l'eredità anche all'altro figlio, no? Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano, là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto, eh? Quindi è un padre che ama la libertà dei suoi figli, la ama, secondo queste parole di Gesù, al punto da permettere che i figli, appunto scelgano la loro vita, facciano la loro vita, si allontanino da lui, in fondo anche quell'altro che rimane con lui, però si allontana invece interiormente, no? Nell'altro figlio più grande, si allontana col cuore, ma anche quello lo lascia in pace, potremmo dire così, no? E solo dopo lo cerca poi con entrambi i figli, i quali entrambi si sono presi la loro parte di eredità e poi si sono allontanati col cuore da lui, il primo, il più grande, e l'altro addirittura con la lontananza fisica e anche il comportamento e anche appunto lo sperperare tutti quei beni, paterni e il padre. Cioè, li recupera con l'accoglienza, con l'affetto paterno, con la capacità di misericordia, di riconciliazione, di perdono, e riaccoglie il più giovane quando torna, lo vede da lontano, lo sappiamo, no? Come l'abbiamo meditato tante volte, no? Questo ebbe compassione, quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto e è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato, e cominciavano a fare festa. Quindi la tentazione di non sentirci più adatti a essere figli del Padre, figli di Dio, è una tentazione tipica, no? Dell'essere umano, tipica dell'essere umano in questo senso, e l'altro figlio invece protesta perché si sente non trattato da figlio, no? E non trattato ingiustamente, quindi anche lui, ecco, lui non si rende conto di questo, non chiede perdono, non ha la tentazione di non essere più degno di essere chiamato figlio, ma di fatto si comporta in un modo che potrebbe portare a questa conclusione, no? Se ci fosse un po' di consapevolezza. E il padre come agisce nei confronti di un tipo di un caso, di un figlio che non si sente più degno, con la sovrabbondanza della sua paternità, e nei confronti dell'altro lo stesso, no? Lo stesso. Più che altro manifestandogli che questa paternità c'è sempre stata, no? E tu non mi hai dato un capretto, ti servo sempre, da tanti anni non ho mai disobbedito a un tuo comando, tu non mi hai dato mai un capretto per fare festa con i miei amici. La protesta di chi sente il peso del servire Dio a lungo. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto, è tornato in vita, era perduto, è stato ritrovato. Il padre che aiuta il figlio, diciamo, non lo ha abbandonato come tetto della casa paterna, non lo ha abbandonato come comportamenti, così fuori dalla regola, ma però lo aiuta ad essere anche lui padre per quest'altro figlio. E questo Questa è la grande, la grande missione di Gesù, no? La grande missione di Gesù, rivelarci il volto del Padre, poi riconciliarci col Padre attraverso la sua, in fondo anche nella sua morte e risurrezione, lui ci manifesta la grandezza del Padre, la potenza del Padre, l'amore infinito del Padre che dona suo figlio per noi, no? Così che il nostro dubbio che sempre può assalirci, no? Che Dio è lontano, che Dio non ci ama, che Dio o che non siamo degni dell'amore di Dio e così via, no? Viene sconfitto dalla croce, perché questo dobbiamo guardare, la croce che poi diventa risurrezione, quindi la vita distrugge la morte, il peccato porta ad uccidere il figlio di Dio, ma il figlio di Dio risorge perché l'amore di Dio è più grande di qualunque peccato, anche più grande del peccato più grande che è l'uccisione di Dio. E allora questa, come il Padre ha mandato a me, anche io mando a voi, questa missione noi ce l'abbiamo, no? Tutti i cristiani ce l'hanno, quando ricevono il battesimo, in fondo tutti gli uomini ce l'hanno in qualche modo, e di manifestare con la loro vita il Padre che non si vede, no? Dio nessuno l'ha visto, ma il Figlio ce l'ha rivelato. E quindi manifestare, beh, pensate com'è bella la nostra missione, no? La nostra vocazione, manifestare con la nostra vita, con il nostro sguardo, con la nostra parola, con i nostri gesti, con la nostra esistenza, l'amore infinito del Padre, no? Però c'è proprio bisogno, anche noi abbiamo bisogno di figure che ci rivelano il Padre, attorno a noi, figure paterne, materne, fraterne, insomma. Di ogni tipo, no? Cioè, pensate, ogni gesto di perdono, no? Pensate anche nella vita coniugale, cioè è una, o nel rapporto padre-figli, madre-figli, cioè è tra fratelli è un manifestare la presenza del Padre e la sua capacità di misericordia, no? E pensate, l'altro giorno il Papa, che il Papa sicuramente è un'immagine del Padre per noi, no? Il Papa, cioè, i sacerdoti tutti hanno, infatti spesso vengono chiamati Padre, no? Per questo hanno questa missione un po', ecco, un po' particolare, ma tutti i cristiani ce l'hanno, come ripeto, uomini e donne. Però il Papa un po' di più, Santo Padre lo chiamiamo, e in Colombia, anche se lui dice cari fratelli e sorelle, perché sottolinea l'aspetto appunto che siamo tutti figli, e lui dà la pace, saluta con la pace, poi ho desiderato venire fin qui. Come pellegrino di pace e di speranza, desidero vivere questi momenti di incontro con gioia, ringraziando Dio per tutto il bene che ha compiuto in questa nazione, nella vita di ogni persona. Vengo anche per imparare, sì, imparare da voi, dalla vostra fede, dalla vostra fortezza di fronte alle avversità. Voi sapete che il vescovo e il sacerdote devono imparare dal loro popolo, per questo io vengo a imparare da voi. Sono vescovo, ma vengo a imparare. Avete vissuto momenti bui, difficili e bui. Questo è molto bello, perché è ovvio che noi dobbiamo dare l'immagine del Padre, però siamo limitatissimi, no? E quindi anche è bello vedere come questo esempio, ci ricordiamo anche il nostro Padre, nei suoi viaggi di catechesi, San Simeone che diceva: sono venuto ad imparare, no? Questo ciascuno di noi lo può vivere, però proprio per questo uno può essere padre e allo stesso tempo imparare, perché per esempio in questi casi, ecco, la Colombia ha vissuto una guerra lunghissima, adesso stanno cercando di vivere una riconciliazione che è ardua, ma è esemplare. Chi non l'ha vissuta in modo impara, no? Ma in generale possiamo imparare da tutti. E dice del padre, no? Avete vissuto momenti difficili e bui, però il Signore è vicino a voi nel cuore di ogni figlio e figlia di questo paese. Lui non è selettivo, non esclude nessuno. Il Signore abbraccia tutti, quindi anche questa dimensione del padre che non è selettivo, abbraccia tutti e tutti, ascoltate, tutti siamo importanti e necessari per lui. Tutti siamo importanti e necessari per lui. Quindi forse questo è appunto un messaggio che possiamo, non è che sia nuovo, ma sentirlo detto così. Ci risulta come nuovo e lo riscopriamo. Poter dire a tutti: tu sei importante e necessario per il padre. Sei un figlio che è amato dal padre come un figlio unico, no? Durante questi giorni vorrei condividere con voi la verità più importante: che Dio ci ama con amore di padre e vi incoraggia a continuare a cercare e a desiderare la pace, quella pace che è autentica e duratura. Dio ci ama con amore di padre, ripetiamo insieme, ha detto, Dio ci ama con amore di padre. Grazie, poi più avanti lo ripete ancora, no? Cioè dice, com'è che dicevamo prima? Allora tutti, Dio ci ama con cuore di padre. Con amore di padre, con cuore di padre. Lui aveva detto, Dio ci ama con amore di padre, e poi dopo ripeto, Dio ci ama con cuore di padre. È un messaggio molto importante, no? Che io penso che anche a voi, noi abbiamo nell'opera questa grazia di Dio, questa fortuna di avere, ecco, lo chiamiamo padre, no? Colui che fa capo in questa famiglia. Mettiamo poi in evidenza, no? Anche in questo modo quello che è vero per esempio per ogni vescovo, no? Che guida la sua chiesa, che comunque noi lo chiamiamo padre e penso che noi che siamo qui a Milano in questi 5 giorni, 5-6 giorni, no? E non completi, ma che abbiamo vissuto con lui, abbiamo avuto questa gioia di percepire la sua paternità nella quotidianità, no? Se normalmente, ecco, magari un po' più da lontano, con le lettere, insomma, con le azioni di governo, con i messaggi che ci fa arrivare, invece lo percepiamo, però vederlo qui, anche abitare con noi, abbiamo potuto percepire questa paternità nel suo sguardo, nel suo sorriso, e ne siamo grati al Signore e continuiamo a pregare per Lui perché possa passare questa immagine di padre, di Dio padre a tutti i suoi figli, in uno scambio, non so se era un pranzo, una cosa, certo disse, certo, insomma, siamo in 70 paesi, cioè è tanto, no? E qui si vede che lui sente un po' la spinta a poter andare dappertutto e ci vuole tempo, no? Ci vuole tempo, forse anche fatica, anche se l'abbiamo visto molto molto sereno e molto contento di stare con noi e poi di stare con i suoi figli anche in altre città, in altre nazioni, no? E io penso che appunto mi sembra di aver percepito questa immagine di padre, è appunto molto simile a quella che noi meditiamo nelle parole di Gesù e nella storia della Chiesa, nella santità della Chiesa, questo padre che appunto, mi sembrava di percepire, cioè io ho notato questo, ma che in tantissimi incontri non ha accolto, ha ascoltato, ha gioito, sottolineato qualche cosa, no, di quello che gli si diceva, ha risposto a qualche domanda, però fondamentalmente appunto ci ha conosciuti, eccoci, soprattutto in modo particolare negli incontri dopo pranzo e dopo cena che avevamo a casa, ascoltava tanti racconti delle persone invitate. E con molta attenzione, con molta gioia, ma io ho notato che mi sembra che non abbia mai fatto un appunto, no? Devo dire, se non in una sola occasione quando uno di noi raccontava un episodio così con un suo amico che si avvicinava alla fede da una posizione di lontananza. E poi, dopo aver raccontato questo episodio, quello che raccontava ha detto: vede che padre, che insomma c'è della gente buona. Allora, in quel caso, no, c'è qualcuno, insomma, invece il padre, ecco, questo è stato l'unico appunto che ha fatto: no, non c'è solo qualcuno buono, ma ci sono moltissime persone buone, c'è tantissima gente buona che ci aspetta, insomma, che aspetta l'invito a conoscere il Signore più da vicino, eccetera. E quindi capite, cioè, io ho annotato dentro di me, cioè, l'unica appunto è stato più nella linea del positivo, no? Dell'aprire il cuore, no? E dell'essere ottimisti, insomma, con un ottimismo basato sulla fede. Anche mi pare che un altro aspetto è stata la sua, sì, appunto, anche da un lato non, mi pare che non ci siano stati così elementi di annotazioni, di rimproveri, eccetera, piuttosto il fatto di sottolineare tutto il positivo, no? Avete fatto tante cose belle, no? È straordinario quello che è stato fatto attraverso l'opera in Italia in questi anni. Però siamo solo agli inizi, quindi perché il tempo sarà, cioè ci sono davanti gli anni, i secoli, eccetera, no? Quindi in effetti poi questo voler bene che si percepisce dallo sguardo, dall'attenzione, dall'ascolto, dal sorriso, dalla semplicità del rapporto, mi pare che abbia fatto immediatamente scaturire in noi che stavamo con lui, che lo ascoltavamo, una semplicità di risposta di filiazione, no? E di risposta di figli che gli dicono tutto, che non hanno problemi, no? Che bussano alla sua porta, no? Come è capitato a me in un paio di circostanze, beh, un ragazzo dopo un incontro di questi, dopo pranzo, mi ha detto che beh, lui avrebbe voluto chiedergli un paio di cose, ma non ha avuto occasione, e allora mi è venuto di dire: beh, andiamo a vedere se è libero, no? Se ti riceve. E allora abbiamo bussato alla sua porta. Anche questo è bello, no? Cioè che non c'erano così barriere, no? Guardie del corpo, non c'erano, no? E lui era lì al suo tavolo che leggeva alcune lettere, perché anche in questi giorni gli sono arrivate lettere e cercava di leggerle subito per eventualmente, ecco, rispondere se c'era qualcosa di urgente. E allora si è alzato subito dal suo tavolo e è venuto verso di noi: che c'è? Allora, gli ho presentato brevemente questo ragazzo e siccome ha capito che poteva, cioè che aveva desiderio di parlare, e sono fermati lì. Gli ha dedicato, vedete, in modo, come dire, non previsto, no? Una dozzina di minuti in un tempo che aveva un poco più ampio, no? Non è che aveva molto più tempo prima dell'incontro successivo. Quindi in questo ha manifestato che viene prima la persona, no? Da ascoltare, che le cose da fare. Anche se nelle cose da fare c'erano altre persone che gli avevano scritto, no? Però così così come quando poi sono andato a salutarlo perché poi il giorno, l'ultimo giorno partivo un po' prima e gli volevo dire questo e anche lì no, ho bussato alla sua porta e lui stava ricevendo una telefonata o facendo una telefonata, non so, mi ha fatto cenno di entrare mentre lui stava parlando, quindi come dire un'inclusività, diciamo così, paterna nel suo mondo, nella sua vita, senza segreti, diciamo, senza... E poi dopo mi ha ascoltato, mi ha detto anche lui delle cose riguardo a quello che sarei andato a fare, no? E io penso che la... così come anche, so, anche da altre persone che gli hanno scritto, che poi le ha ricevute, che ha detto loro che hanno fatto bene a scrivergli quelle cose anche un po' problematiche, no? Anche col coraggio di dire ecco, bisogna affrontare questi problemi che abbiamo nella nostra famiglia, e lui ha incoraggiato a manifestarli perché gli interessano, no? Gli interessano. Allora, questo è così, sono piccoli aspetti, voi stessi potete avere avuto altre manifestazioni di questo vivere una paternità semplice, anche umile, disponibile, ottimista, che guarda i figli con uno sguardo che li fa crescere, no? Che li valorizza, che... E allora pensiamo che, e questo ne abbiamo notato il beneficio, no, nel rapporto con lui, nella semplicità di potergli manifestare qualunque problema, e qualunque idea, qualunque suggerimento, qualunque... E ci sentiamo, come dire, cresciuti nella sensibilità di... la missione ricevuta dal Signore per servire la sua Chiesa, per fare questa opera di Dio in mezzo al mondo. E allora noi possiamo imparare ancora una volta, sempre di più, insomma, ecco, chiedendo alla Madonna che ci aiuti a capire questa infinita paternità di Dio nei nostri confronti, questo amore di padre che è una sovrabbondanza di bene, che cancella qualunque peccato, che cancella qualunque nostra debolezza, e allora riempirci nel nostro dialogo con Dio Padre, nel nostro stare tutto il tempo che vogliamo nel suo abbraccio, nell'abbraccio di Gesù che ha un corpo e quindi lo sentiamo, che è l'abbraccio del Padre, l'abbraccio del Padre che accoglie il figlio, il prodigo, che torna dopo aver dilapidato tutte le sue cose, che lo riempie di festa, di grasso, di musica, di vestiti, di tutto, no? di tutti i beni possibili. No? Allora noi nello stare in questo abbraccio possiamo riscoprire di essere figli, la gioia di essere figli e il desiderio di manifestare con il nostro essere figli, questo volto meraviglioso del Padre a tutti.